Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Buonasera da Rock Away, buonasera da Maurizio Calzavara. Mercoledì, come ogni mercoledì, abbiamo un live. Io sono molto contento e soddisfatto stasera di avere ospite in trasmissione Germano Monaveri. Buonasera Germano. Ciao Maurizio e ciao a tutti gli ascoltatori. Come stai? Bene? Hai fatto un buon viaggio? Bene, viaggio perfetto, non ho trovato neanche nebbia, quindi... Un po' freddino forse. Quello sì, che... devo dire che sono uscito coraggioso in camicia e mi sono accorto dopo che avevo sbagliato. Ecco, esatto. Però poi è venuto fuori il sole, hai visitato Padova, che era un po' di tempo che non vedevi, forse avevi già visto. Devo dire che il centro non l'avevo mai visto e ho visto una piazza bella, immensa. Bellissima, sì. Impressionante, meravigliosa. L'abbiamo passeggiata con Patrizia, la mia compagna. Che era la tua manager, qui presente. Buonasera Patrizia. Ci siamo camminati la piazza, è stata una bella giornata. Poi abbiamo mangiato in una paninoteca qui accanto. Bene, sei stato soddisfatto. Sì, fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene, è importante questo. Tu vieni da Bologna. Bologna, l'altro giorno parlavamo con un musicista bolognese. Bologna e l'Emilia è il centro del mondo dal punto di vista musicale. Guccini, i Nomadi, l'Equipe e tanti altri. Come mai secondo te, Germano? Non lo so, io ti dico la verità, ultimamente credo che i centri si siano un po' persi. Sì, è vero, una volta. Ha sempre avuto una bella tradizione, ma forse perché il bolognese come indole è molto socievole, quindi è aperto anche ad esperienze altre, a conoscere le persone, e credo sia uno strumento importante per poi andare a scrivere. E comunque è vero che Bologna fino almeno qualche anno fa viveva tanto di musica, adesso soffre un po' meno. Sì. Ma soffrono tutti un po' adesso? Sì, ma credo che non sia solo la musica. No, credo certo, che tipo di tutto. Tutto rispecchia il mondo in cui viviamo, che attraversa un periodo di grande difficoltà. E credo di un periodo però propizio, perché certo. I greci insegnano quando la ruota gira, arriva al suo minimo, poi in qualche modo... Diciamo che ci rimane, non ci resta che essere ottimisti. Insomma. Certamente. Come hai cominciato a soffrire piacevolmente di musica? Ho cominciato da bambino, a 5 anni, ricordo che regalarono a mia sorella un flauto dolce, lo sequestrai, quindi... Usavi te praticamente. Sì, non ho mai imparato da dire di saperlo suonare uno strumento, però fin da bambino ho iniziato a scrivere canzonette, poesiole, verso i 10 anni. E poi a 20 anni ho sfiorato la realizzazione del mio primo disco, perché Francesco Guccini trovò gradevole il mio lavoro e mi presentò a Fantini. In quegli anni stavano producendo un certo Vinicio Capossela. Ah, un certo, sì. Che da lì ho sempre odiato, no, scherzo ovviamente, quella famosa invidia. E solo in seguito, poi mi sono buttato nella meccanica, ho iniziato a dover lavorare e ho ricominciato a dar corpo al mio progetto da un letto di degenza. Dopo un incidente serio stradale ho deciso di abbandonare un mestiere che facevo per fare questo mestiere, quindi ho iniziato a 30 anni. Considerato che in Italia sei esordiente fino a 63-64, direi che ho iniziato giovanissimo. Ho capito, quindi questo incidente stradale ti ha aperto le porte a un mondo diverso, un mondo musicale. Sì. Cioè hai voluto fortissimamente lasciare quello che facevi prima e buttarti nel campo della musica. Sì, volevo dire delle cose. E volevo probabilmente soddisfare anche quella parte egocentrica che è in ognuno di noi, che quando è riconosciuta diventa sana, diventa uno stimolo, perché rimane circoscritta. È un po' avere una malattia e sapergli dare un nome, no? Quando invece spesso noi li chiamiamo con nomi che non lo vanno mai a rappresentare. E quindi anche soddisfare l'egocentrismo voleva dire non mi limito a cantare in doccia, ma cerco di dire delle cose su un palcoscenico. Io non voglio parlare per altri, ho riconosciuto quella forma di egocentrismo, ho cercato di dargli un senso e controllarla. E la scrittura è sempre stata una mia passione. Hai cominciato però non proprio da solista, ma con Resto Mancia, che era la tua band iniziale. Sì, ho fondato un gruppo con l'intenzione di... nel quale scrivevo comunque i testi. E quasi tutte le musiche. E mi piaceva, da romantico quale sono, l'idea di fare un qualcosa che anni dopo avremmo rivisto nelle fotografie vecchie, un po' rovinate adesso nell'era del digitale, un po' più fatica. E guardare con quella nostalgia sana del guarda dove siamo partiti. Poi... quando la piramide comincia a avere comincia a salire un po' tanto sulla china, è inevitabile che ci si perda per strada, che le cose si frantumino un po', e ad un certo punto ho deciso che era giusto dare anche un volto e un nome a chi diceva delle cose, anche perché alcuni testi avevano una piega molto personale, quindi non si spendevano più con il nome di un gruppo. Era il 2004 questo disco con il Resto Mancia? Sì, ecco, era di rivero, fu una demo. Una demo. Che noi preparammo in 10-11 giorni, tutti inesperti di una cosa sala, velocissima, praticamente. Rapida, compreso il mixaggio e mastering. Ah, tutto fatto da voi? No. Fatto con l'aiuto di Christian Lisi, che è un bassista di Bologna, che ci fece un po' da produttore artistico, perché non sapevo, io veramente, per me lo studio era un grande gioco, nonostante l'età, cominciavo ad avere i miei 33-34 anni. Quindi inesperti avevamo cercato una guida alla cosa, ed è nato in fretta, a risentirlo oggi lo guardo con molta tenerezza, perché comunque è una cosa fatta da me, e lo trovo quasi anacronistico, in certi momenti quasi imbarazzante, anche se ci sono dei pezzi che ancora oggi canto e suono. Praticamente all'epoca musicalmente come potevi descrivere sto mancio? Un gruppo rockettaro oppure no? Era un gruppo, mi viene da dire, per certi versi folk, un folk che qualche volta guardava al combat folk. Ah, Modern City Rumble. Sì, no. Anche se io resistevo molto a sta cosa, era un po' l'imprinting del gruppo. Ho capito. Ed era un po' anarchico, nel senso che era anche la mia prima collaborazione con musicisti, quindi era un po' il calimero della situazione, cioè, io sono un metalmeccanico. Per me sono un amante di poesia, io credo di sapere a memoria quasi tutte le poesie del nostro Rinascimento, però per me la canzone era molto concentrato sul senso, sul colore, su cose che in realtà musicisti interessano meno, musicisti interessa sapere se sono tre quarti o un sette ottavi. Esatto. Quindi è stato anche un momento di grande confronto, quindi dovevo anche lasciare andare, mi hanno insegnato tanto, devo dire che la mia prima formazione musicale vera è iniziata lì, un po' tardi negli anni. Però è stata positiva, è stata importante, quindi lo zoccolo, che poi è continuato con i tuoi album da solista, meraviglioso e magnifico del 2006, che ha un po' dato una scossa musicalmente parlando, un disco che ha avuto tanti consensi. Magnifico è stata una sfida, perché con Scivolavia eravamo arrivati ad approdare a un contratto con Warner. Quindi etichetta importante, una multinazionale. Sì, devo dire che falsò un po' gli equilibri del gruppo, perché ci fu che si montò un po' tanto la testa. Cose che capitano. Io riuscii a recedere dal contratto dopo 11 mesi e 20 giorni, c'erano 12 mesi di tempo per recedere, perché non eravamo un prodotto per loro e loro non erano la giusta produzione per noi. E quindi la cosa è finita in ottimi rapporti, devo dire. Poi mi era venuta questa curiosità, questa voglia di parlare con Beppe Quirici. Citiamo un secondo questo grandissimo personaggio che purtroppo non c'è più, Beppe Quirici. Beppe è stato, lo dico senza retorica, tant'è che lo ricordo quasi in ogni concerto, è stato il mio maestro. Io ho avuto due maestri nella vita. Uno mio padre, che mi ha cresciuta, posso dire, a ferro e poesie, perché era un metalmeccanico, quello che mi ha insegnato la metalmeccanica, è Beppe Quirici. Prima ancora che come musicista, come uomo, ecco. Perché è una persona di un'integrità unica. Come tutti noi, lo dico senza alcuna allusione, ma con i suoi mostri dentro, specialmente perché è un artista, quindi l'artista ha un demone, un diamond dentro che preme, però è un grande maestro, una persona che veramente ha saputo tirarmi fuori un sacco di cose. Una persona con cui avrei dovuto fare anche il questo disco nuovo disco Città Invisibili, quello sì. Che adesso parleremo. Una persona aperta senza pregiudizi, pensa che io lo chiamai estorcendo il numero alla Warner con delle balle vergognose. Fra l'altro mi ricordo che Marcello Balestra, che saluto, che è un amico di Warner, che mi disse: io ti do il numero dopo ore di insistenza, ma non dirgli che te l'ho dato io. Io chiamai il signor Quirici, sì, buongiorno, sono Bonaveri, mi ha dato il numero Balestra, quindi ho tradito meschinamente la promessa. Morale della favola, lui ha preso i testi e dopo un buon mese e mezzo mi telefonò e mi disse: faccio il disco. E devo dire che fece il disco praticamente senza compenso, per il gusto. Quindi già da lì abbiamo iniziato a lavorare assieme, a divertirci. È stato un disco che ha chiesto 8 mesi per essere partorito. Quindi un disco pensato. No? Sì, tanto. Molto. Discutendo, ho dei bellissimi ricordi proprio di discussioni su ragionare su di che colore poteva essere il muro di una stanza dove capitava una scena. Fatto all'antica, devo dire, fatto in maniera anacronistica, perché poi negli anni ho visto come vengono fatti i dischi, nella media, con questo non voglio pigliare dentro tutti, devo dire che siamo stati anacronistici, 8 mesi dove mi ricordo momenti di stasi e di forti liti, perché lavorando si dicono anche cose sgradevoli. Questo è vero. Anche per tempi dilatati, cioè roba da star fermi 15 giorni su una canzone. Perfetto, adesso cominciamo, poi parliamo ancora dell'arrivo di l'arrivo a Città Invisibili, ma sentiamo un pezzo di Città Invisibili. Hai scelto la traccia numero 1, mi pare. Sì, che però io ovviamente per memoria non ricordo, ma adesso mi viene in mente, Danza. Che bellissima, io l'ho scelta come per un mese, è andata in onda da questa emittente, ho trovato molto delicata, molto bella. La musica non è tua, però è la musica di Antonello D'Urso, che è il mio chitarrista, un grande amico, grande compositore. Aveva questa musica da un po' ferma sul tavolino, mi ha detto tienla lì e vedi cosa ne viene fuori. È venuta fuori una canzone che parla dell'invisibilità delle persone anziane e del fatto che io sto entrando in quell'età, prima o poi ci arriverò, per certi versi ci sono già, credo che non siano, non, l'età non ponga limiti e vincoli allo sviluppo dell'essere umano, anzi possono essere un sistema per trovare nuovi orizzonti, quindi è nata danza. Ok, la sentiamo adesso. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Balla, ti prego balla ancora, e non mi importa quanto può costare, ho ancora spiccioli di esistenza per poter pagare, tu balla ancora. E parla, parla ancora, e vienimi a trovare, stammi ad ascoltare, anche quando nulla ancora c'è da dire, nei tuoi occhi grandi troverò parole quasi d'amore. Parole quasi d'amore. Lasciami credere a un mondo impossibile, dove per noi non esistano regole, dove anche gli angeli possono esistere, perché tu balli con me. E balla, ridi forte, balla, sfrontata e nuda sei ancora più bella, e non mi importa quanto può costare, tanto so che comunque non potrei pagare, e grida, danza, poi ancora parla. Dire ti amo sarebbe un gesto naturale, e bacia, parla, sorridi. Dire ti amerei è ciò che posso fare. Il tempo porta via il coraggio infantile di dimenticare che comunque questa vita è tutto un scivolare, tu balla ancora. E guarda, guarda ancora, e cerca di capire, prova a immaginare quello che a volte non si riesce a dire, nei miei occhi stanchi leggerai parole quasi d'amore. Parole quasi d'amore. E canto, ballo, sorrido, per quando ancora mi verrai a trovare nel mio universo impossibile, dove anche i giorni possono tornare, e grida, danza, poi ancora parla. Dire ti amo sarebbe un gesto naturale, e bacia, parla, sorridi. Dire ti amerei è ciò che posso fare. Blu Radio, Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Posso dire, questo è un pezzo bellissimo, un arrangiamento molto particolare. Dance, è appunto un arrangiamento, non posso dire danzante, non so se è proprio giusto dire così, però parlavamo con Germano a microfono spento, si può sentire in qualsiasi ora, a notte tarda, o solo la mattina, non ha una quantificazione di orario, si può sentire in qualsiasi momento, un pezzo meraviglioso. L'idea dell'arrangiamento così fatto è stata tua e di Antonello. Devo dire è stata mia, nel senso che volevo... La canzone racconta fondamentalmente della solitudine di questa persona che io ho immaginato anziana, che è consapevole di questo divario che c'è con la bellezza, con l'idea di gioventù, e comunque invita questa ragazza a continuare a danzare. Però in realtà è un soliloquio, mi viene da dire quasi un vaniloquio. E quindi credo che sia vera la visione che tu dici quando dici non ha un orario, diciamo, d'ascolto, nel senso che è il momento in cui chiunque si può fermare a riflettere sulle grandi domande che tutti ci siamo posti nel corso dell'esistenza. E volevo un arrangiamento che, anche quando e qualora fosse suonato da strumenti, rimandasse sempre alla solitudine. Quindi una chitarra molto malinconica, anche i momenti in cui Arcari suona l'oboe, sono forzatamente anche spinti fuori come volume, proprio perché fossero, l'idea volevo che fosse molto glaciale, molto fermo, invernale. Sì, credo che per quello forse non risente di un connotato temporale. Beppe aveva questa idea di danza, era già partorita l'idea di danza quando Beppe aveva intenzione di produrre, poi purtroppo se n'è andato, aveva intenzione di produrre questo disco. Quando Città Beppe ha sentito i provini, che erano, credo che adesso vado a memoria, credo che siano 13 tracce alla fine di Città Invisibili, sì. Non ho il dono della memoria. erano in realtà poche tracce, in più forse 15-16, perché di solito quando fai un disco prepari più materiale e a volte lasci fuori anche qualcosa che trovi bello, ma una delle regole di chi poi sopra di me fa dischi, cioè conosce il mondo della musica, dice cerca di mettere anche una traccia un po' più debole, perché sennò non ci sono momenti, non ci sono punti, quindi è meglio avere una range di scelta. Sì, avevamo già parlato a grandi linee di quello che poteva essere il progetto e devo dire che una delle ultime cose che mi disse fu appunto: appena sto meglio cominciamo subito il lavoro. È stato credo che gli abbia fatto bene pensare questo, però è stato, noi pochi mesi prima ci siamo risentiti e mi ha detto comincia, perché e quindi hai cominciato e l'hai finito, quindi l'hai prodotto, produzione artistica, hai fatto tante cose, hai dato tutto te stesso in questo disco. Città Invisibili, abbiamo detto prima, sempre il microfono spenti, sì, c'è un discorso di Calvino, però Calvino è solo l'appunto, solo l'input. Città Invisibili, come si sa, è un libro di Calvino famoso, però è un motivo per parlare non di Calvino, è solo uno spunto. Sì, l'idea era, devo dire che avevo iniziato con la voglia di un concept su Calvino, Calvino è un gigante, io credo, della metafisica, e oltre che della scrittura. Della scrittura, chiaramente. Però un po' perché mi aveva colpito la frase finale del libro, un po' perché nel comporre la canzone Città Invisibili ho cominciato a porre sempre più attenzione al tema dell'invisibilità, sì. E mi sono accorto che quest'epoca è contraddistinta dal punto di vista negativo, adesso poi delle cose belle ne parleremo, ma dal punto di vista negativo è contraddistinta da alcuni fenomeni che secondo me sono forti. Uno è la volgarità e uno è questa necessità assoluta di comparire, perché in questo la percezione che si ha oggi è che si esiste se si appare. E allora mi è venuto in mente di parlare degli invisibili. Ho capito. Degli invisibili per costrizione, per scelta, per condizione sociale, comunque di tutte quelle forme, un po' il popolo senza voce di Dio che sarà, di Chico Buarque, sì, certo. Quelli che gli assassini, tutta quella categoria di persone, compreso la persona normale, che non godendo della visibilità non ha voce, non ha influenza. Questa è una visione distorta invece di un dato certo, che se le persone cominciassero a usarla la voce, la visibilità è altra. Decisamente alta. Andiamo al secondo pezzo che hai scelto sempre dalla scaletta, ti ricordi il titolo? Credo sia la traccia numero 3. Traccia numero 3, perfetto. In regia, ecco, proprio la title 3. Credo. Le città invisibili. Città invisibili. La title 3. La sentiamo e poi ne parliamo ancora. Ok. Okay. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Thank you. Sai che Villa Meridiana è un paradiso, lontano secoli dalla povertà. Come vorremmo dar la colpa al caso per scelte fatte in piena libertà. Tra agronomie misteriose lontane, fatte di boschi e marcite fangose, di gracidare sommesso di rane, di voci basse tra porte socchiuse, scopri che questo lancinante mondo umano non offre idee ma solo barricate. Poi puoi ribellarsi con la penna in mano ed inventarsi storie mai vissute. Kublai Khan, lascia che ti racconti di una qualunque di cento città, di come il rosso di certi tramonti possa far piangere di felicità. Perso tra i sogni di Marco Polo, ebbe visioni chiare della vita, l'ispirazione di un momento solo, con quella penna stretta tra le dita. Despina si staglia l'orizzonte e prende forma dal deserto cui si oppone. È un confine tra due vuoti come tante città del nulla e di quello che rimane. Chi vive a Bauchi conosce la distanza, mondo di cielo forse mai esistito, restando muto a contemplare la propria assenza tra castelli di nubi rubati all'infinito. Città invisibili sepolte in fondo all'uomo, come ancestrali ricorsi di saggezza, come parole messe senza un suono, come l'ultimo atto della giovinezza. Kublai Khan, lascia che ti racconti di una qualunque di cento città, di come il rosso di certi tramonti possa far piangere di felicità. Verso tra i sogni di Marco Polo, ebbe visioni chiare della vita, l'ispirazione di un momento solo, con quella penna stretta tra le dita. Kublai Khan, forse ti ho ingannato, o forse tu ti sei beffato di me. Kublai Khan, non siamo mai esistiti, stupidi fantasmi in mezzo a troppi sé. E forse il mondo è l'immaginazione che sa dipingere le città che sai. Marco Polo è soltanto l'illusione di ciò che in fondo non saremo mai. Sai che Villa Meridiana è un paradiso, lontano secoli dalla povertà. Come vorremmo dar la colpa al caso per scelte fatte in piena libertà. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Sono le 22 e 30 minuti. Spot. Longarone Fiere informa. Dal 23 ottobre al 1 novembre c'è Arredamont, l'appuntamento con l'arredare in montagna. A Longarone dal 23 ottobre al 1 novembre. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, ci siamo, abbiamo sentito la title track. Dobbiamo ricordare una cosa: diretta rockaway.altervista.org, ci potete vedere e sentire. Stasera potete anche vedere Germano che sta suonando la chitarra, chiaramente. E Patrizia. E Patrizia, no, no, no. Si vede anche la Patrizia qui vicino. Sei nei monitor. Esattamente, attraverso le telecamere. Ringraziamo un momento il nostro staff, Michele Tosoni in regia, chiaramente Agostino Spolaore e Roberto Baldi che hanno curato le telecamere, le nostre tre affezionate ascoltatrici, la Patrizia, un'altra Patrizia, la Simonetta e la Silvia che ci sentono, e poi altre cose importanti, e la musica è essenziale secondo me, e un disco di Germano è un disco molto significativo, un disco che a microfono spenti parlavamo, si deve ascoltare con lentezza, con calma, per assaporarlo tutto quanto, momento dopo momento. E ringraziamo anche il nostro direttore artistico, grazie a lui sei venuto qua, Alberto Prisco. Cosa dici, Germano? Ma dico che è stato un parto complesso, dico che sì, è vero, credo sia un disco da ascoltare, dico una cosa che in radio non andrebbe mai detto, non è il disco radiofonico, lo mando una volta. Però è una scelta, nel senso che se vuoi raccontare storie, io certi film li ho guardati più di una volta, più di due, più di tre, per capire i film in fondo. Quindi The Other o Braveheart, perfino Braveheart, che è uno dei film che preferisco, penso di averlo visto un numero che non dirò di volte per non passare da... Faccia le battute a memoria. Riconosci le battute di Braveheart. Quindi ci sono delle cose... Anche dal punto di vista libri. Fisico non sei tanto distante. Sono a dieta. E sei a dieta. Presto sarò un uomo magro. Benissimo. Ok, ci fermiamo un momento su Città Invisibili, che è la title track. Quindi, musicalmente dicevi, è un pezzo molto difficile, complesso da fare. Complicato. Sì, è stato un pezzo assolutamente complicato, perché a differenza di altri brani dove ho composto su una musica esistente, come In Danza, quello che sentivamo prima, questo è un pezzo di cui ho scritto sia la parte musicale che la parte cantata. Io ho una maniera di scrittura, un modo di approcciare le canzoni che è molto figlio della parola. E quindi vado a subordinare un po' tutto alla stesura del testo. E questo ha messo in difficoltà, perché a volte individuare una cellula ritmica su cui poi costruire tutto l'arrangiamento diventa un suicidio. Lì devo dire che sono stati i due coarrangiatori del disco, che sono Antonello D'Urso e Luigi Bruno, che mi hanno aiutato veramente tanto a trovare la chiave, tant'è che a un certo punto si è scelto di abbandonare la batteria fino all'ultimo ritornello per stare su un caon e delle piccole cellule percussive, proprio perché altrimenti il pezzo veramente non camminava. Sono quei pezzi di una semplicità unica come, diciamo, come movimento compositivo, ma di una difficoltà incredibile da rendere. Sì, hai detto la cosa giusta, semplicità dal punto di vista di ascolto, però cosa c'è dietro? Tanto lavoro, un enorme lavoro. Un brano da due mesi di lavoro, discussioni, io lo vedevo così, lui lo vedeva in altra maniera, poi avete trovato un accordo, è giusto così? Sì, ma la discussione è creativa. Citando Quirici, la prima regola, mi ricordo, il primo giorno che ci siamo visti, disse: lavorando si dicono cose sgradevoli. Questo ricordo, abbiamo fatto dei litigati, perché... Incredibili. Erano stati momenti tesi, mi ricordo una volta alzarsi in piedi e puntarmi l'indice, poi ridere perché l'ho chiesto a te, tu sei carico, quindi c'era un clima, quindi insomma sono un po' così, la costruzione di una canzone, di un progetto, anche perché all'interno di questo devi sempre cercare di non perdere di vista la coerenza di tutto l'insieme, perché spesso quello che può essere la soluzione valida per un brano poi te lo rende talmente incoerente col resto che può essere pericolosissimo. Quindi certo. Abbiamo lavorato duro. Benissimo, sono le 22:35, adesso come nostra consuetudine prendi la chitarra e fai il primo pezzo. Allora, la chitarra è qui, io dirò agli ascoltatori che non sono un chitarrista, però siccome l'invito mi stimolava, quindi sopporteranno questa esecuzione di alcuni pezzi che farò dal disco di Magnifico, dal disco precedente. Anche come omaggio ideale a Beppe, di cui abbiamo parlato. Quindi vado a eseguire Magnifico, che è una canzoncina sull'esistenza, quindi anche sugli aspetti grotteschi dell'esistenza, e comunque sul fatto che è magnifico viverla. Okay. Comunque sia, alla Marquez, vivere per raccontarla. Perfetto. Proviamo. Rock Wave, l'onda del rock. Plausibile, come andarsene a ricominciare, come scegliere di restare, come l'ultima sigaretta spenta sul viso del tuo nemico, come la vita vissuta in fretta, come le cose che non ti dico, come le cose che non mi dirai e che in fondo ho capito e lo sai. Possibile, come scegliere di cogliere un fiore per guardarlo e scoprirne il colore, come te che sorridi leggera, come vendere un portafortuna, come amarsi davvero ogni sera per guardare arrossire la luna, come a volte sai può capitare di ritrovarsi da soli a viaggiare, fattibile, con uscire a comprare qualcosa, o saper perdonare un'offesa, come andarsene nudi per strada, per scoprire di avere un pudore, come bere soltanto rugiada, come un pazzo che parla per ore, come chi non ti vuole ascoltare e vorresti soltanto spiegare. Inutile, come illudersi di ringiovanire, come i farmaci per dimagrire, come assumere droghe leggere, cantando il canto dello sciamano, come chi beve per dimenticare, ed ha un'agenda portata di mano, come le favole che non mi ricordo, come battute capite in ritardo. Drammatico, come una dose di prima mattina, per far crescere l'adrenalina, come lo smettere di fumare per un gestore di tabaccheria, come non essere per sembrare, come la noia, la monotonia, come baciarlo al momento sbagliato, quando alla sera non hai digerito. Magnifico, come qualcosa che voglio cantare senza pretesa di comunicare, come una strofa senza una rima, o questa musica improvvisata, come le cose che ho detto prima, come una foto nata sfocata, come la lirica leopardiana, o come la vita che è proprio puttana. Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito allora un pezzo da Magnifico, l'album precedente, sì. L'album che ha smosso, possiamo dire così. Sì, devo dire che mi ha aiutato. T'ha aiutato, anche no? Perché c'era una grande curiosità a vedere cosa stava facendo qui. Hai visto un passato di grandi nomi. Esattamente. Io ero decisamente. Si è buttato su di te. Ma perché si è buttato su Germano? E c'era un motivo, chiaramente. Speriamo, si spera che vi abbia visto giusto. Cioè, sicuramente ci avrà visto giusto, al 100%. Benissimo, allora ritornando al disco nuovo, quindi un disco che è tutto, hai fatto praticamente la produzione artistica, con tutti con i musicisti che hanno collaborato, le idee sono venute fuori, sono state idee pesanti, c'è stata fatica per fare un album simile, ma una fatica positiva però. Tantissimo lavoro, guarda, fra l'altro Maurizio Biancani di Phonoprint. Sì. Ha sposato il progetto, al 100%. Anche lui, come fossimo una grande cooperativa di matti. E fra l'altro anche lui, abbiamo passato giornate a casa sua, anche nel momento del mixaggio, anche a volte su strumentazioni abbastanza improbabili. Pensa che alcune canzoni sono state fatte premixaggi con le cuffie, quindi per chi conosce Biancani, che è uno dei più grandi fonici italiani, immaginassero lavorare lontano come regia, per fedeli Yamaha è una cosa, è come bestemmiare in chiesa. Certo. Eppure è stato un lavoro fatto anche questo come Magnifico fatto all'antica, cioè lavorando veramente con passione su ogni canzone, rifacendo, un work in progress, per dirla un po' l'inglese. Non è stata una cosa divertente, anche sofferta, faticosa. Comunque alla fine ha portato via anche lui una decina di mesi di lavoro. È una cosa che chiedo ai musicisti, chiedo anche a te stasera: come Germano scrive un pezzo? L'idea, dove nasce Germano dei pezzi? Allora, diciamo sono due situazioni diverse. Una è quella dove ho una musica. Quando ho una musica, che spesso è un riff, perché a dire il vero i ragazzi con me, quelli con cui lavoro, hanno un rapporto molto, molto tranquillo. Spesso non è che mi portano la canzone, mi danno un ritornello, un tema, e dicono guarda qui c'è questo, tienilo lì. E a volte sta lì qualche mese, poi succede qualcosa per cui su quella canzone trovo diciamo così, il bandolo della matassa, diciamo, da cui sbrogliare questo gomitolo di pensieri, e in 6-7 minuti nasce il pezzo. Beh, velocissimo. Sì, ma spesso non... Pensa che nel primo disco dico, in una canzone che si chiama Scivola via, mi piacerebbe usasti le parole, che è un errore di... Certo. E l'ho scritta l'hai lasciata così. E la lascio così. In questa così. Canzone c'è un errore che mi fece notare Maimone, ma io lo sapevo già. In danza dico che comunque questa vita è tutto un scivolare. È una forma dialettale bolognese, la dirò, le totum sguiller, Bello, bello questo. Che sta per tutto un scivolare, e l'ho lasciata. Ho perché capito. È nata così, quindi di getto. Quando invece compongo io, ci metto più tempo a trovare il bandolo, perché avendo poche conoscenze di accordi sulla chitarra, io devo affidarmi alle note maggiori, minori e settime, e il resto lo devo pensare dopo e su quello andare a scrivere. Però la parte testuale, che paradossalmente è quella a cui tengo di più e a cui dedico più cura, nasce in, veramente in pochi minuti. L'unica canzone che è stato un parto un po' più difficile, lunghissimo di questo disco, è stata Lettera al figlio. Ah, sì. Perché volevo, avevo un obiettivo, e devo dire anche Le città invisibili come scrittura ha richiesto un po', anche perché è nata nel corso di diverse riletture anche del libro di Calvino, della biografia di Calvino, e quindi insomma è stato un lavoro, però è stato più un lavoro di dover acquisire nozioni che non, quelle che avevo non mi bastavano per affrontare la canzone. Ho capito, chiarissimo. Adesso facciamo sentire un altro pezzo, sempre dalla scaletta, che non ricordo qual sia, te lo ricordi? Te il numero che... Il numero C, numero 6, mi dice Michele. Numero 6, che lì è? Eccolo qua. Clandestino. Clandestino, che è un altro pezzo molto importante, che dopo cercheremo di allargare. Adesso lo sentiamo, perché bisogna sentire certo. Prima. E poi ne parliamo, ok? Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. L'attenzione massima, non scialare, certe cose non si possono comprare. Ho un futuro tutto da costruire, moglie e figli da mantenere. Ho un lavoro sì, ma un lavoro che non so come dire. È la metafora di chi si vanta di una casa senza fondamenta. Sono nato in un paese al di là del mare, che ho lasciato per il sogno di migliorare. Imbarcato con la luna piena, arrivavo che era già mattina. Clandestino sì, clandestino mi potrete chiamare. Globalizzato nell'indigenza, emarginato dall'ignoranza. Parla bocca piena di opportunità, confondendo il bisogno con la libertà. Eri naufraghi, non c'è altro da fare, l'unica scelta è quella di nuotare. Verso cosa no, io davvero non so più dove andare. Profugo ed orfano di un altro mondo, piccola pietra che ha toccato il fondo. E mentre tutto cambia, ritornano gli spettri della povertà, tra lacrime e sudore, speranze di illusioni, qualche cosa intorno muore. E ormai nessuno lo può vedere, imprigionati da un'informazione, utile idiota del potere. Imbarcato con la luna piena, scaricato come una puttana. Clandestino adesso vuole tornare nel suo paese al di là del mare. Negli spasmi del disordine sociale si realizza un nuovo ordine mondiale. Sulle spoglie della democrazia brindano i servi dell'economia. In un mondo, sì, questo mondo che non sa più reagire alla deriva intellettuale della mancanza di una morale. Al di là del mare, che ho lasciato con il sogno di migliorare. Imbarcato con la luna piena, arrivavo che era già mattina. Clandestino sì, clandestino adesso vuole tornare. Profugo ed orfano del vostro mondo, di un occidente che ha toccato il fondo. Blu Radio. Colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Diretta Rock Wave. Antervista.org, ti vedono, c'è poco da fare, ci vedono con le telecamere, ci vedono dappertutto, dall'Alaska a Roma, dappertutto. Fantastico. Parliamo di questo pezzo da movimento, ci muoviamo tutti. Sì, ho visto Michele si muoveva, saltare, mi sono esaltato anch'io. Esattamente. Mi sembrava un po' il signor No a un certo punto quando sono partito senza seguire i consigli, adesso vederlo così. No, è la storia di tutti noi, credo, di chi si è già passato, di chi ci passerà. Io ho vissuto la condizione di clandestino quando sono varcato dal porto della Meccanica per andare verso i mari della musica, senza le niente in cambusa, cioè sono partito per com'era, e quindi ero clandestino. E come sei trovato? Mi è toccato nuotare. Ah, ti è toccato nuotare, bello questa frase, mi è toccato nuotare. Sì, questo è un altro dialettale, poi sono emigrato a Torino quando ho conosciuto lei, e lì ho rischiato di affogare. Ti dico, credo che oltre al clandestino canonico, una cosa che ogni tanto racconto, è brevissima ma è significativa, ed io credo che il potere ce l'abbia chi conosce parole, e riappropriarsi delle parole, del significato delle parole, faccia acquisire potere. Perfino nelle tradizioni antiche, la parola, perfino nella Bibbia, fiat lux, la parola è gesto creatore in potenza, quindi le persone devono riappropriarsi dei termini. In Francia, sì. Anzi ti dirò prima, la radice della parola clandestino è clam diestinus, che vuol dire colui che trama nel buio e odia la luce. Ora, se io ti presento un mio amico che ha paura del buio, della luce, e trama nella notte, tu ti guardi la schiena da questo mio amico. In Francia li chiamano Saint-Papier. Ho capito. Quindi clandestino siamo un po' tutti, anche perché ormai in queste condizioni socio-economiche veramente si rischia di dovere, è tramare nel buio, perfino avere lo sconto da dentista pagando in nero. Quindi la necessità porta a tramare nel buio, siamo tutti un po' clandestini, anche dal punto di vista etimologico. Quindi io credo che il grande lavoro che dovremmo fare è pretendere un funzionamento delle scuole, senza fare discorsi politici, ma un funzionamento delle scuole, riappropriarsi delle parole, riscoprirle, ridargli un significato, perché chiamare le cose col loro nome salva le popolazioni. Quando le persone non sanno spiegare la rabbia, ricorrono al gesto. Se avessero un termine per esprimerla, probabilmente quel gesto arriverebbe un attimo dopo. Quindi il clandestino dice un po' queste cose. Musicalmente il clandestino ha questa attinenza, questo muoversi. Non è il clandestino di Manu Chao, che è un'altra par di maniche, però anche Manu Chao ha movimentato il percorso musicale. E tu in questo pezzo, intanto questa bellissima chitarra di Antonello, nylon di Antonello, mi è consentita l'espressione, questa nylon, la chitarra nylon, bella a morire. Lui è un eclettico, suona indifferentemente i tre strumenti, acustica, elettrica e classica. Ragazzo di un talento, verrà fuori la grande. Verrà fuori, io spero, assolutamente. E questo pezzo è un pezzo posto in una certa dimensione, il pezzo numero 6 mi pare che sia. Sì, il pezzo numero 6, e ha quasi alla metà. Anche quello è significativo, c'è poco da... È quasi... Perché la gente deve muoversi, ha sentito due o tre pezzi, non dico lenti, ma retrospettivi. Sì, certo. Deve muoversi, deve cominciare a muovere. E questo fa muovere, e fa pensare, chiaramente. Certo. Ma fa muovere. Beh, ti dico, io credo che è un po' la mia natura. Questo pezzo è quello che più si avvicina, diciamo così, alla mia parte animale. Io sono uno springstiniano, vecchia Anch'io. Maniera. Anch'io. Quindi tu immagina... Il vero gusto è, però veramente volevo fare un disco meno di invettiva rispetto a Magnifico, che è molto più potente musicalmente, e poi anche perché è iniziato il progetto che avevo 40 anni, dico, io l'ho vissuto al discorso della boa, senza particolari patemi, però ero consapevole che stavo diventando un omino, un omone, diciamo, vista la mole. E quindi volevo fare una cosa che, volevo dire un po' di cose, senza andare in particolar modo in maniera diretta con l'invettiva, volevo semplicemente fare delle considerazioni. Anche perché io le ricette non le so dare, io credo che il compito, dico una parola pesante, artista, il compito dell'artista sia proporre dei paesaggi, fare vedere delle cose, poi le soluzioni ci sono persone competenti per darle, e soprattutto l'opinione all'ascoltatore va lasciata, quello che decide di... Io quando guardo un quadro ricevo le mie impressioni, quindi volevo fare un disco più misurato, il prossimo probabilmente sarà affermativo e presuntuoso come magnifico che intanto abbiamo titolo. Città invisibili, intanto abbiamo certo. Questo da sentire. Sentiamo un altro pezzo che dopo ci sarà una cosa molto interessante alle 23. Michele lo sa, i nostri ascoltatori lo sanno, tu non lo sai. Tu non lo sai. Che pezzo è, Michele, adesso? La traccia numero 8 la leggiamo. Andiamo rapidamente a vedere: 3, 3, 6, 2, 8 e il ragno. Io ho un insetto che non ho mai amato, era negli incubi di quando ero bambino e ho associato il ragno, e qui ti dico, senza fare nomi perché non lo troverai simpatico. Gradevole, molte persone hanno associato il ragno a una persona in particolare, in realtà questo lo posso dire, lo dico, nel senso che, perché non è una canzone pensata verso qualcuno, il ragno è la figura del politicante e del banchiere, ma neanche italiano, di questo sistema mondo. Che ramifica. E da questi dobbiamo stare attenti, da questi in tutti i sensi dobbiamo stare attenti, non esiste più, non credo più alla figura, nessuna è così importante da determinare la vita di un paese, tanti insieme sì, quindi bisogna guardarsi bene da tutti i ragni, se no rischiamo di continuare a rompere le scatole per quel povero ragnetto messo là senza accorgerci che intorno c'è, è pieno di ragnatele. Esattamente, ok, il ragno. Rock Wave, l'onda del rock. Il ragno tesse, non ha fretta, lascia che tutto sia come sembra. Stende fili sottili, ben nascosti in soffitta, rannicchiato nell'ombra, sta fermo e aspetta. Il ragno è astuto, tiene molto all'onore, che baratta soltanto con un po' di potere. Nel regno dei ragni è sgradito il rumore, non si dice il peccato nel peccatore. L'insetto vola, vola, vola, vola e va. Il ragno tesse legami sottili, protetto dall'alta società. Conosce i rami di tutti gli alberi e sa che ogni ragno rispetterà le trappole tese alla luce del sole che tanto nessuno rivelerà. La mosca è stupida, così si dice, sa di essere inutile, è un'idea che le piace. In fondo è comodo lasciare fare, che c'è sempre uno slogan di vento da cui farsi adescare. La mosca è cieca, pensa solo a volare, per un pugno di merda si lascia comprare. Ma la mosca è imprudente e non c'è nulla da fare, è soltanto la prossima preda da catturare. La mosca vola, vola e presto finirà nella tela mortale che il ragno è intessuto, protetto dall'alta società. Conosce i rami di tutti gli alberi e sa che ogni ragno rispetterà le trappole tese alla luce del sole che tanto nessuno rivelerà. Le mosche muoiono senza avvisare, conoscono appena 300 parole. L'esperienza non si produce se l'emozione non ha una voce, e dovranno leggere per imparare un nuovo linguaggio che sappia informare, perché altri ragni non possano nuocere a mosche ignoranti impegnate a volare. Il ragno tesse trame, ancora ucciderà le mosche distratte che volano basse nel caldo assolato di questa città, che intanto trascorre il suo tempo sceno attraversato da gente comune. Ma questa è una storia di insetti pensanti, di ragni insolenti. Il ragno tesse trame, ancora ucciderà le mosche distratte che volano basse nel caldo assolato di questa città, che intanto trascorre il suo tempo sceno attraversato da gente comune. Ma questa è una storia di insetti pensanti, di ragni insolenti e di televisione. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Sì, quindi potete interagire con Germano con questo numero di SMS e insultarlo. Ma perché no? Perché no? perché no, nel senso positivo del termine, certo, parlare, anche nel senso negativo, dialogare, oddio, con, è liberatorio, con, certamente. Ok, un'altra cosa, sì, sono quasi le 22, le 23, fa poco c'è il giochino, il famoso giochino, i 5 dischi o 3 dischi, da Patrizia, abbiamo deciso che Patrizia, ansia. 2 o 3 dischi da portare su un'isola deserta. Sì, ho deciso di non pensarci, improvvisare sul posto. Quindi... è giusto improvvisare, è bello così, ma qui qualche volta si improvvisa, spesso si improvvisa, musicalmente parlando. Devo salutare ancora Nicoletta, che è anche un'altra nota ascoltatrice. Sei pronto per i 5 dischi, Germano? Dai, a tuo piacimento, vai, ruota libera. Non dirò l'ordine esatto, no, quello che vuoi ne te. Salvo 5, di sicuro 5. Storia di un impiegato, Fabrizio De André. Ecco, ci fermiamo un secondo, perché Storia di un impiegato di De André? Perché credo, meno... che sia, no, credo che sia il più bel concept della storia della musica italiana, inteso come concept. È un film, è un lavoro discografico che diventa in realtà un lavoro cinematografico. E quindi lo trovo un capolavoro. Io lo trovo un capolavoro, sai cosa di De André? La buona novella. Ah, altro grande capolavoro. Io lì c'è un pezzo che faccio sempre dal vivo, che è Tre Madri. Bellissimo. Perché è la pietà di Michelangelo in esatto, musica. Esattamente. Lo sai, Fabrizio, in quel periodo faceva delle cose immense. E io per la storia dell'impiegato, sarà che l'ho scoperto che avevo, credo, 7-8 anni. Disco difficile per storia dell'impiegato, secondo me. Sì, veramente. Molto complesso. Rompevo le balle, fra l'altro, gli arrangiamenti di Piovani. Certo. Rompevo le balle a mia sorella, scusate la parola sorella che è un po' forte, perché mi scrivesse il testo del Bombarolo e avevo 8-9 anni, quindi è un disco che ho amato fin da bambino. Quello è il primo in assoluto, poi? Lo salverei. Poi di sicuro Renaissance, il concerto live at Carnegie Hall. Ecco, dunque sono 5 anni che noi facciamo questo programma, è la prima volta in assoluto, e io sono molto contento di ciò, che tu citi i grandi Renaissance. Carpet of the Sun, Mother Russia, il grande Renaissance hai citato, una cosa meravigliosa. Ha vinto una bambolina. Hai visto? meraviglioso. Come mai Renaissance è un gruppo che pochissimi conoscono, molto pochi. Come mai questo? Non lo so, so che io li adoro. erano bravissimi. Un'altra cosa che adoro fin da quando il folk inglese è rivisitato e corretto da loro. Sì. Partendo dallo zoccolo di una foca. No, io non sono, con la mia memoria i nomi mi sono vietati. Lei trovo che aveva una voce. Ah, il disco era molto bello, poi loro erano molto bravi. Grandissimo, dei giganti. Ok. Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Quello è al di fuori della classifica. Ok, allora lasciamo fuori. No, va bene. No, posso dire il mio. Io ho uno dei Fossati live, anzi uno doppio. Volume 1, volume 2, live dal Ponchielli, bellissimo. Al teatro io di, questo, di Cremona. Sì. È il mio mito. No, bellissimo. Poi vabbè, Springsteen per dire cose del boss. Beh, guarda, fino a Born in the USA tutti. E tra i tutti direi The Wild, The Innocent and The Street Shuffle. Ah, ecco. Cosa ne pensi di questa riproposizione del disco di adesso sarà ristampato il secondo famoso album di Springsteen, davvero? Ma riarrangiato? No, ristampato chiaramente l'originale più delle outtakes, delle cose sconosciute che vengono fuori adesso. Beh, una confezione di lusso, deluxe proprio. Ah, non me la perderò, io adoro. Ecco, senti il boss, eccolo qua. Boss è sempre qui, Boss sì. Non morirà mai musicalmente parlando. Questo è il gigante. E questo è proprio il Boss, il gigante. Poi rimangono due, direi, per i miei 5, dopo Patrizia direi i suoi. Uno no, è Guccini, no, ti tocca. No. Pensa, hai tempo. Hai qualche secondo, sì. Di sicuro Francesco Guccini e credo, sono indeciso fra Via Paolo Fabbri e Radici. Radici perché è un'opera esoterica, Radici ha delle chiavi di lettura alchemiche, profonde. Guccini, anche se il suo pezzo che è dove ha toccato la perfezione è Bisanzio, che è in Metropolis. Sì, certo. Però diciamo, direi che si può sostenere tranquillamente Radici. L'ultimo, a quel punto qui mi balenano 2000 titoli, però vado a istinto, è Inti Illimani, la nuova canzone cilena. Ah, ok, va bene. Perché fa parte della mia infanzia. Anche lì avevo 8 anni a Palazzetto dello Sport di Bologna e piangevo con questi omoni col poncio rosso. Certo. E diceva a mio padre: voglio diventare così. Mio padre ha scossato la testa e detto: poveretto. Scossato, termine bolognese. Sì. Che vuol dire praticamente? Scosso. Si è un po' scosso. Ritorna al momento a Radici di Guccini. Io amo particolarmente un pezzo di Radici. Beh, Radici l'ho sentito milioni di volte. Incontro, secondo me è un capolavoro. Bravo, assoluto. Sono d'accordo. Penso che sia uno di più bei pezzi. Assieme alla bambina portoghese, uno dei più bei pezzi che lui ha scritto. Sì, beh, incontro e correndomi incontro lungo le scale, esatto. Quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. Noi è cinematografia. cioè quel testo là dice tutto. Anche se ti dico, in assoluto, se dovessi, mi dicessero una frase di Francesco che ho capito, ti dirò, forse qualche mese dopo aver preso il disco, è la capovolta ambiguità di Orione in Argentina. Perché questo in due parole ha descritto un paese, un popolo, visto certo. Da noi. Guccini. E Patrizia, vai, no, Patrizia. No, non ne ho, davvero. No, è solo Fossati. Sì, lui è il mio unico mito, a parte Germano, ovviamente, però sì. Un Fossati dal vivo, Ponchielli. Sì, quello. A me piace molto di Fossati la pianta del caffè. Del tè. È un album di qualche anno fa, molto interessante. Bellissimo. Quando faceva le cose... un po' più avanti, cosa dici, sì, Germano? Beh, c'era Stefano Melone e Beppe Quirici che arrangiavano tanto. Credo che quel disco, non vorrei sbagliarmi, con 700 giorni, credo che quel disco l'abbiano prodotto Quirici e Melone come produzione artistica. È vero. Melone con penso cui sì. Sto per uscire coi prossimi concerti. Ah, però. Bene. Citiamo la band un momento, se hai tempo. Allora, la band storica mia. Sì, la band storica qui fa i concerti. Chitarra. Vede, Antonello Durso alle chitarre, Luca basso. De Riso al basso. Nicolo Morale al pianoforte, Gabriele Palazzi alla batteria. Benissimo. Paolo Biavati fonico, che però è fonico ovunque, insieme a Michele Rocchi, che è l'altro valente fonico. Gabriele Rocchi, sì. Ho detto Michele. Sì. Michele. Perché mi sento osservato. Sì, Michele. Comunato a Michele. Vai. Vicino a Michele. E invece adesso ci sarà la prima il 25 di novembre a Teatro Tivoli a Bologna. È un progetto in cui io ripresento questi tre dischi rivisti, già rivisto anche parte di Città Invisibili, che è l'ultimo che è uscito. Sì, però sai, credo che dal vivo uno debba proporre comunque qualcosa di diverso, senza esagerare, ma certo. Ci saranno parecchi esperimenti, anche perché la formazione atipica vedrà Marco Fada alle percussioni, Stefano Melone a tastiere, pianoforte, chitarra, basso, effetti speciali, perché useremo parecchia elettronica, e Edmondo Romano ai fiati, anche perché è un altro... polistrumentista, sono una quantità mostruosa di strumenti a fiato. Quindi io è arrivato giù con tre valigie, mi sono arreso, tre giorni di prove. Zampogne. Ed è una cosa abbastanza, mi viene quasi da usare il termine, un esperimento quasi progressivo. Bello. Sì, poi Fad è un percussionista eclettico, suona dai bidoni di latta. Un po' di tutto, sì. Quello che cambia. Bene, sulle 23.04, adesso un altro pezzo tuo, Germano. Sempre stato magnifico, hai detto. Sì, starei su questa cosa. Magnifico, ricordiamo che è il 2006, mi pare, giusto? 2006. Magnifico, credo del 2006. Sì, 2007. Tra il 2006 e il 2007. Diciamo dicembre-gennaio. Ecco, quelle date là. Allora, io proponevo... Tutto dal vivo, sta girando le pagine, tutto dal vivo si vede assolutamente. Torquemada, che è il grande inquisitore, il confessore della regina di Spagna. Certo. Che viene messo a capo del braccio secolare. Ed è un parallelismo fra quel tipo di coercizione che passava attraverso lo spaventare, il minacciare, a una coercizione diversa che quella dei giorni nostri, che passa attraverso la televisione. Io immaginavo Torquemada davanti a questo creatore che tutto sommato dice: guarda che sono sempre quel Torquemada, non mi sa che adesso sono più bravi di me. Vado a suonare. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Ci vuole molto rigore e una provata moralità per non lasciare la strada dell'unica verità. Mi presento, Vostra Eccellenza, sono Thomas de Torquemada, uomo di fede e di scienza. Chiedo che mi si conceda di restaurare vecchi poteri in questa nostra stagione, che si combattano l'impietà nel tribunale dell'Inquisizione. Quante facce, signor Torquemada, ma quanti astuti travestimenti. Complimenti ne ha fatta di strada indenne, tra secoli farneticanti, e la ritrovo anche adesso ogni sera imbonire nei telegiornali. Ma la sua faccia non è quella vera, o son discepoli immorali che si spartiscono trasmissioni per garantirsi quell'impunità, figlia di secoli di inquisizione, madre di questa nostra società. La lama dell'assassino di Capra è sempre una pecora da sgozzare, così chi cerca la condanna sempre è una legge da far rispettare. Ma resta il dubbio, signor Torquemada, che a volte un giudice possa sbagliare, nessun Dio gli conceda il diritto di giudicare. In questi giorni di medioevo, dove ogni sorte è decisa da lei, anche l'inferno ha paura e adesso prega, prega per noi. Presento Vostra Eccellenza, a Torquemada era il nome mio. Ora altri rinnegano l'uomo nel nome abusato di Dio. I sicari dell'arroganza si spartiscono il potere con una forma cieca di violenza più sottile del mio torturare. E come Assuero cerco riposo, vagolando nell'eternità. Il mio progetto mostruoso si rinnova in ogni società. Ci vuole molto sudore e una certa dose di follia per parlare all'amico e seminare un'idea. Torquemada può riposare di suoi sudditi e andare via. Basta smettere di subire ogni giorno la stessa bugia. In questi giorni di medioevo serve il coraggio di amare per rinnegare con tutta l'anima ogni santissimo inquisitore. Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Che bisogna accordare anche le chitarre dal vivo e poi continuare a accordarla. No, la gente lo sta sentendo e vedendo. Ma poi la premessa di non essere chitarrista credo che saranno sì. Indulgenti, spero. Sì. Poi ha detto una cosa molto simpatica quando era finita la canzone: la sedia resiste, sì, resiste. Un po' pensando. Beh, sai, quando uno passa i 100 kg. Sì, ma non si vede ampiamente. Che non si vede che è ritenzione idrica. Bevo tantissima acqua e la cosa fa malissimo. Come sei anche acqua. Detto. Quale acqua? Lui dice quale acqua. Benissimo. È acqua, è tutto acqua, è assolutamente acqua. 23:09 e 54 secondi, quindi assolutamente in diretta stasera con Germano Bonaveri. Parliamo del tuo disco, ma parliamo un po' di tutto, chiaramente, certo. Della sua vita musicale, dei suoi incontri. E una cosa volevo chiederti, Germano: è difficoltà per te suonare i tuoi pezzi in giro, le tournée? Cioè, trovi i posti, trovi difficoltà oppure no? Allora, dal punto di vista, allora, forse per me suonare ogni sera. Ok. La realtà è un pelo diversa. Il problema è che adesso sembra un discorso presuntuoso, ma non parlo di Bonaveri, nel senso che non avrebbe neanche senso. È che la proposta è sempre a scendere, sempre a calare, nel senso che i cachet sono diminuiti, certo. Le persone spendono meno, e c'è una concorrenza devastante dal punto di vista proprio del fatto che la tecnologia offre a tutti la possibilità di inventarsi un disco in due casa. Giornate. E delle volte spesso un locale ti dice: io perché dovrei prendere te magari che stai a 400 km e per quanto il cachet sia ridotto, spese, costi, sia Empass, quando c'è il ragazzetto qui sotto che oltre a venire per 100 euro porta anche 30 amici perché abitano lì. E quindi sia un bel da dire che io, a me fa ridere, a volte sento grandi, grandi proclami da parte anche di organizzazioni comunali, aprire alla cultura. In realtà credo che si stia facendo un grande lavoro invece per ridurre gli spazi di incontro e di cultura, ed è in questo che mi piacerebbe che le persone facessero una resistenza attiva. È vero che adesso le persone, tutti abbiamo altri problemi più seri, che sono quelli da arrivare a fine mese, però bisogna stare attenti, perché è vero che serve il pane, ma senza gli strumenti che dicevo prima, la parola, la preparazione, il pane se lo portano via in un baleno. I veri partigiani oggi devono riappropriarsi degli spazi per il pensiero, più che del telefonino o sì, altri accessori. Secondo te questo succede solo in Italia o all'estero c'è un discorso più positivo, c'è più spazio alla cultura? Io sentivo dei ragazzi che sono stati in Germania, loro cantavano in italiano, chiaramente neanche in inglese, sì. In italiano non avevano nessun problema di cantare in italiano. Io sono tentato, spesso con Patrizia ci diciamo... Infatti penso che ci dedicheremo anche all'estero, probabilmente. No, a volte ragioniamo fra noi, tu se puoi testimoniare. Lei è la manager, la Patrizia, ricordiamo che è la manager. No, ma a volte ci diciamo che si vada a cantare altrove. Il problema è che è una questione di tempo, saremo tutti un po' clandestini. Credo che, ripeto, siamo davanti a un momento epocale che può essere dilatato. Oggi scrivevo a un amico che è come lanciare una pallina, arriva un punto che questo oggetto che sta salendo poi si ferma e da lì comincia la discesa, esiste quel punto. Secondo me noi siamo in quella fase, non importa quant'è dilatato il periodo, capito, però noi siamo in quel momento lì. E adesso è un momento che può essere pieno di eventi, comunque io lo trovo molto positivo, è una svolta. E qui però bisogna farsi trovare preparati. E credo che la nuova resistenza non avrà lo stem piuttosto che la mitragliatrice, ma il vocabolario in mano. Ecco, è una cosa bella, avrà il vocabolario in mano. Credo sia indispensabile. Importantissimo. A proposito di vocabolario e di altre cose, citiamo il tuo sito che l'abbiamo ancora citato. Certo, anche perché c'è una foto dove sono un figo da paura. Benissimo. www.bonaveri.it. Inoltre ho... Anzi, scrivetemi perché io rispondo a tutti. No, ma quelli... Io ogni tanto scrivo, ma ho chi mi dà una mano, che è Patrizia, quindi tu gli indirizzi li sai meglio di me. MySpace, si cerca Germano Bonaveri, semplice. Poi Facebook, ovviamente, c'è la pagina artista, sempre Germano Bonaveri, ti trovano. Perfetto. E invece bonaveri.it, che è il sito dove c'è una foto davvero che lascia il segno. Lascia il segno. Benissimo. Ok, 23 e quasi 14. Lascia il segno anche l'altro pezzo dal disco. Che pezzo è, Michele? Che traccia è? Numero 10. Benissimo, ti ricordi che traccia che è? Adesso vediamo la traccia. Finché ho dito riesco a contare, quindi 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, Lettera al figlio. È Lettera al figlio, con un pezzo molto bello, e poi parleremo anche di una bella presentazione che ha fatto Luigi Magnerone, di questo disco. Salutalo. Salutiamo Luigi Magnerone. Che saluto e ringrazio, esatto. Mi sono debitore di parole meravigliose. Un personaggio straordinario che vive in Friuli, non so dove sia adesso, è un cittadino del mondo però. Sì. Sentiamo questo pezzo e poi ne parliamo, ok? Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Quel figlio che non ho avuto mai, ma ora dormi che un giorno capirai. Dormi, dormi, amore mio, che il tuo piccolo cuore di uomo riposa con te. E ogni sogno gentile che si poserà tra i pensieri porterà quello stesso incosciente entusiasmo che anch'io avevo ieri. Dormi, dormi, figlio mio, mentre gioco ad immaginarti qui accanto a me. Non avere paura di questo mistero che toglie la voglia di vivere, è la stessa impressione che un giorno ti farà sentire che hai nulla da perdere. Dormi, anima mia, aggrappato al cuscino stanotte non naufragherai. Guarda il mondo con gli occhi aperti e il mondo non ti deluderà, perché sai lo stupore degli occhi e quel tono che ci salverà. Dormi, dormi, figlio mio, il silenzio di questo stellato tramonto brullerà. Non avere paura di questo mistero che toglie la voglia di vivere. È la stessa impressione che un giorno ti farà sentire che devi resistere. Dormi ora, angelo mio. Dormi e inventa il futuro, disegnalo come lo vuoi. E se un giorno ti fosse difficile farcela con le tue mani, tu abbandonati a quella fiducia incrollabile che hai nel domani, perché anch'io, sai, anima mia, dipingevo orizzonti sereni in un cielo imparziale. Ma la vita non è realizzare ogni sogno improbabile, o soltanto resistere come chi non ha più nulla da perdere. Ma ora dormi, dormi, riposa. Veglierò su quel figlio che non ho avuto mai. Avrò cura di lui, di me, del suo mondo e dei sogni che ancora farà, perché sai lo stupore che porta negli occhi e quel dono che mi salverà. E mi salverà il delirio dei semplici quando chiedono uguaglianza tra gli uomini. E se un giorno avrai la voglia di crederci come noi quando eravamo più giovani, scoprirai che tra le pieghe dei secoli si nascondono le storie degli umili, quelle genti che si chiamano popoli, quelle vite dai contorni indelebili. Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo meraviglioso, pezzo non pesante ma sofferto, pensato, un bel testo, un testo che fa pensare, è giusto che sia così. Sì, era lettera a un figlio che non ho mai avuto, ma che in realtà è un po' quella parte infantile che è dentro ognuno di noi, che cerchiamo di tutelare dall'esterno, che trattiamo. È anche quella parte però che quando siamo in profonda difficoltà o solitudine percepiamo aver di fianco che ci danno una botta sulla spalla e dice, certo, dai che sei sempre migliore, tira avanti, è un po' quello lì. E quindi gli vogliamo bene, cerchiamo di proteggerlo. Un pezzo che è stato parecchio sofferto, il ritornello, chiamiamolo ritornello, la chiusura, quell'esplosione era presente anche a metà canzone, perché volevo comunque fare un pezzo che parlasse della rivoluzione. Io mi sento come indole molto, sento delle forti analogie col Che Guevara, ma non il Che Guevara, Che Guevara rivoluzionario, Che Guevara che amava l'uomo, non a caso era, adesso dico un paradosso, ma sul quale si può discutere tanto, ma la butto lì così, anche se è una frase violenta, lo amava al punto di essere in grado di sparargli, Che Guevara lo diceva, solo chi ama tanto l'uomo può puntargli un'arma. Ed è il mio pezzo di rivoluzione, un po' l'erede del pezzo delle diversità da Magnifico, e dove veramente credo che quello che ci può salvare è il delirio dei semplici, che sono poi gli invisibili, sono le persone che portano in fondo la loro vita, quindi non curanti del dove si arriva ma della maniera in cui ci si arriva, quindi la dignità, l'onestà, quei valori che io da buon laico riconosco invece in altri valori, che sono quelli degli uomini di buona volontà, che c'è un gran bisogno. E c'è una cosa meravigliosa, una presentazione bellissima, toccante, che ha fatto uno straordinario artista che è venuto più di una volta qua, è Luigi Magliero, che dice Luigi. Bonaveri è uno straordinario cantore di geometrie e di parole e sentimenti. Una cosa, ha fatto un 4-5 parole, cioè ha fatto la presentazione, ma queste parole ti inquadrano perfettamente. cosa puoi dire a Luigi Maiero? Ah, io guarda, l'ho chiamato anche perché mi ha fatto un regalo splendido, pare che mi ha commosso. Esattamente, ha commosso tanti. Ti dico, a me ha commosso, a parte il suo lavoro che è un lavoro strepitoso, fra l'altro me l'ha fatto conoscere Patrizia, io sono partito dal mago Tiraca, perfetto, che mi ha tormentato, tutte le notti ci pensavo a sta maledetta canzone perché è ipnotica. Sì, esatto. E poi ho cominciato a conoscere un grande artista, un altro grande resistente, un grande resistente. Mi piace definire un partigiano, io vengo dalla generazione partigiana e credo che il grazie detto con la massima sincerità sia una delle massime espressioni di riconoscenza, perché tutto il resto è, la parola non c'entra mai il sentimento, tant'è che uno che scrive canzoni si arrabatta ma non è mai soddisfatto di quello che ha scritto, perché il verde, il colore verde non lo puoi spiegare, non lo puoi, è vero, il colore verde, e quindi non... hai sempre questo senso di incompiutezza, di interruzione, di quindi grazie, è una bella sintesi, un po' mi illumino di me, sono un garettiano. Ricordo quando è venuto qua alcuni anni fa con la chitarra, mi pare che avesse anche un violinista assieme. Sì. Era una semplicità, disarmante nel senso positivo del termine. È venuto qua, ha cominciato a leggere qualche roba che aveva, ha cominciato a mostrare il disco, quello che aveva fatto l'ultimo, aveva poi una bella copertina che si apriva, proprio ci teneva molto a questa grafica, che faceva parte di lui stesso. Sì, sì, era una cosa vero. Che sentiva da dentro, sì, come sì. La stessa cosa che fai te. C'è una comunità, c'è una comunanza. La grafica l'ha fatta la Patrizia, d'accordo? Di questo. Però. Patrizia ha fatto le foto. Ha fatto la foto. E devo dire che anche lì, a livello di fotografia, ha dato il massimo, perché mi ha reso. Anche lì sono un figo da paura. Ti è la responsabile poi della delusione di tante signore quando vengono ai live, no, che vi vedono e dicono: ma è quella roba lì. Però, ma dai, che piace le vecchiette, piace. Beh, piaci, non hai detto una roba che le cinquantenni ti odieranno. No, dai. Di tornare a Luigi, cioè Luigi è venuto qua e ha presentato il suo disco con quella forza d'animo, con quella capacità di accomunare tutti quanti, di accattivare le simpatie. È una persona tutti. Vera, semplice e vera. Però scrive, secondo me, con una... E ti pensa che me l'ha fatto conoscere lei... Patrizia, e poi un amico giornalista di Roma che spesso va in Friuli a trovarlo, perché lui era un'altra persona che sì, semplicissimo. Accoglie tutti, sì, accoglie fa baracca proprio. Esatto, accoglie tutti. Un bel tipo, sì. Bello, bello. Decisamente bello, ma è bello anche il tuo disco. Non so se hai scelto un'altra traccia, mi pare. Che traccia è Michele del disco? Secondo me sono tutti ubriachi in regia. Abbiamo finito tutte le tracce del disco. Beh, allora cosa... possiamo metterne qualche altra? Mettiamo la 7. Mettiamo la traccia numero 7, benissimo. Ritornando un momento, dove si può acquistare il tuo disco? Il mio disco si può acquistare in internet, su iTunes, si può ordinare presso il sito di Egea. A breve sarà in distribuzione in maniera un pochino più capillare, ma è sempre un po' più difficile. Più vanno avanti i tempi, più è veramente complesso. E nei live. Stiamo costruendo... la chiamare tournée mi dà un senso, non lo so, mi sembra una cosa molto retro, perché non, perché calendario. Stiamo cercando di costruire il suonare tutti i giorni, perché in realtà il disco non è, molti lo vedono come il traguardo. Io ho un amico che sta cercando di intraprendere la carriera di cantautore e che spero e penso che presto si sentirà, e che vorrei portarti qui, perché devo dire che questo ambiente è meraviglioso. Non è ipocrisia, credo che Maurizio è qui, poi se avete le telecamere lo vedete. Io sono quello che ho il cuore alla bocca. Questo è un ambiente strepitoso, si sta bene. E quindi questo ragazzo si chiama Cesare Livrizzi, in questo momento non è sconosciuto ai più, però credo che si sentirà parlare di lui. E come sempre mi succede, mi sono perso. Quindi ero partito. Io parto da una parte, non so dove. Eri partito dalla traccia numero 7. Poi parlavi di questo amico cantautore molto bravo. Sì, ma vedi, mi sono proprio perso nei miei meandri. Ho delle sinapsi nascoste. No, parlavi del discorso del live. Ah, sì, esatto. Dicevo proprio con lui che questa idea della tournée e il disco sembra un po' il punto di arrivo di un percorso. In realtà il disco ormai in quest'epoca, credo che sia una sorta di biglietto da visita, un gadget multimediale attraverso il quale puoi cercare di fare delle date. Perché per un musicista, per un artista, il disco non è più una fonte di guadagno, a parte quei 5-6 nel gotha delle produzioni milionarie. Allora, cosa ne pensi del discorso fatto l'anno scorso dai Radiohead, che hanno messo il disco subito su internet, il discorso che ha fatto di Prince, che ha legato il disco a un famoso giornale inglese, venduto circa 2 milioni di copie in questa maniera. Io credo che sia la strada del futuro. Guarda, io sono la cosa che a me indigna è che con queste difficoltà economiche, il costo dei CD, anche la musica sta diventando, per usufruire della musica puoi essere o uno che non ha problemi di arrivare alla fine del mese o devi diventare un ladro. Io credo che dovrebbe essere un po' più fruibile, e poi anche, sai, la tecnologia fa fare dischi a tutti. Secondo me c'è anche un sacco di cose di cui non ce n'è un gran bisogno. Esattamente, per non dire un'altra cosa che radiofonicamente non si può dire. Ok, la traccia numero 7 che Onde. Si chiama Onde, la sentiamo. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Bisogno naturale di restare qualche ora chiuso in casa a immaginare cosa sarà di me. E mi fingo nel delirio di un futuro, un acrobata che sogna in bianco e nero. Cosa sarà di me? E il coraggio di cercare quello spazio in cui restare. Ho una barca da portare che non conta passeggeri, solo io, quello di ieri che ha paura di affogare, sopraffatto dall'onda, vinto dall'onda. Cosa sarà di me? Ho una forte propensione all'incoerenza quando resto chiuso solo in questa stanza e progetto cosa farò di me. Casa non ha porte chiuse a chiave, se ne hai voglia puoi fermarti a domandare cosa sarà di te. Del coraggio di cercare quello spazio in cui restare. Barca da portare che non conta passeggeri, solo io, quello di ieri che ha paura di affogare, sopraffatti dall'onda, vinti dall'onda. Cosa sarà di noi stretti nell'onda? Cosa sarà di noi? Sono le 23 e 30 minuti. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Sì, sono le 23:30, ma mica abbiamo finito, abbiamo ancora mezz'oretta. Abbiamo tempo ancora per parlare, per discutere. Parliamo di questo pezzo, questa melodia molto accattivante. Tu canti quasi quasi raccontassi una favola. Mi è sembrato, sai, questo momento qua. Questa è un po' la classica domanda esistenziale, quella sarà di me. È una canzone sull'amicizia, in realtà. E anche qui parlando dell'invisibilità, cioè è così difficile oggi non perdersi di vista dal punto di vista dell'amicizia, che porsi un attimo questa domanda, porsi anche la domanda di quello che sarà il nostro futuro. Siccome, te lo dicevo prima, io non ho tanta paura, non sono un avido di vita, ho più paura della sofferenza. La sofferenza è uno di quegli aspetti che è vero che le grandi poesie, uno si immagina sempre il poeta leopardiano, la grande sofferenza, grande ispirazione, ma anche no, si può scrivere belle cose anche stando bene. Io credo che il popolo indiano si illuminerà quando non dovrà pensare a sopravvivere, se no è veramente faticoso. E Onda è una canzone di amicizia, vuol dire semplicemente che non si deve chiudere la porta all'altro. E fra l'altro è una canzone che può essere vista anche come canzone d'amore. Patrizia ha pensato fosse stata scritta per lei, in realtà ahimè era scritta che era assolutamente da solo, quindi è una canzone che però è polivalente, è la canzone di un'apertura verso l'altro in genere. Una trettinta praticamente. Sì, ma musicalmente è sempre il quarantennio, no? Arrivi a 40 e dici ma cosa sarà di me? L'idea di questo arrangiamento così delicato, così dolce, così introspettivo anche. Sì, beh, musiche sempre di Antonello D'Urso, le melodie le ho composte io, ma sai, era l'idea proprio, come hai detto tu, un po' di creare anche un mondo sognante, un mondo di aprirsi all'altro richiede anche una certa forma di ottimismo, di propensione verso la vita, quindi ci voleva quantomeno un'atmosfera amichevole, che non fosse ruvida. A me interessa domandarti questo: quando fai un pezzo in studio, Germano, se un pezzo, prendi la chitarra o qualche altro strumento, penso alla chitarra, lo crei. Pensa se sapessi suonare cosa scriverei. Ma sai cantare, sai interpretare le tue cose, e questo è molto importante. Suonare sì è importante, però non fondamentale. No, ma non me ne faccio un cruccio. Appunto, poi c'hai dei validissimi musicisti da una mano. Esatto. Crei il pezzo e lo porti davanti, lo porti ai musicisti, ai tuoi amici, certo, che compone il disco. Che nasce? Cosa si sviluppa? Che feeling si crea in quel momento? Ma lì guarda, con i ragazzi, e credo che sia questa poi la chiave, c'è una capacità di capire il linguaggio prima ancora dell'intenzione. Cioè io chiaramente, adesso poi chiaramente faccio molta autoironia, un pochino di musica ne capisco, quindi è chiaro che ho già le mie idee, decido che tipo di tempo, che portamento mi serve, che tipo di approccio del basso, eccetera. Poi sono dell'idea però che io quando arrivo lì ho già scritto, arrangiato, pensato, quindi bisogna aprire e quindi avanti con le idee, ognuno deve tirar fuori tutto quello che gli passa per la testa. Ci sono canzoni che sono nate con l'idea di essere quasi pop, senz'altro abbastanza graffianti, con intenzioni rock nel disco precedente, Il Mago è una di quelle, e Luigi Bruno per scherzo cominciò a suonarla col portamento di un valzer, e quella è diventata. Si deve sperimentare. È chiaro che con me forse il lavoro è un po' più complesso, perché io parlo molto per immagini. A me è capitato di dire c'è troppo giallo nella canzone, in quel momento credo che mi abbiano odiato. Cioè cosa vuol dire troppo giallo nella canzone? Per me, per esempio, quando il clima è troppo solare magari mi viene una roba o mi viene... spesso veramente dico così, è un po' come guardare la Venice che si asciuga, cioè vado molto a sensazioni. Ho capito. Sono bravi loro che cercano italiano Bonaveri, Bonaveri italiano, sanno il manualino. Cioè hanno interpretato il tuo momento, quello che pensi, quello che vorresti fare in quel pezzo praticamente. Sì. Cosa positiva. E secondo te, se ci fosse stato Beppe, questa interpretazione sarebbe stata lo stesso, oppure ti saresti affidato a Beppe in determinate cose? Guarda, sei il primo che mi fa questa domanda e ne sono proprio contento, perché me lo sono chiesto. E non lo dico per me, delle volte mi sono detto se mai qualcuno me lo chiederà, e non è concordato, quindi no, assolutamente ti dico, me lo sono chiesto e mi dico che avrebbe mi piace dirmi che avrebbe fatto una cosa che certamente non posso dire uguale, però credo che avremmo lavorato su questo canovaccio, che saremmo arrivati al risultato, e quindi questa cosa mi fa, anche perché non ti nascondo che quando ho deciso di iniziare i lavori, perché Beppe mi disse inizia, certo, me lo sono chiesto, era una bella responsabilità, anche perché temi un po' la possibilità che, sai, per quanto sia anche la stampa, è molto più facile anche criticare un signor nessuno piuttosto che un signor nessuno affiancato da. Invece devo dire che sono molto contento anche dell'accoglienza che la stampa, da Massimo Cotta veniva, certo, al mucchio. Insomma, devo dire che fino adesso, e sto aspettandola con ansia, una recensione negativa arriverà. Non dire che adesso faranno la gara per scrivere. No, ma adesso qualcosa arriverà, ed è un buon segno, perché perché finché qualcuno piace una cosa è sano parlarne, ma quando una cosa non piace, qualcuno si infastidisce al punto da doverlo dire, scusa, caspiterina, hai fatto 100. Certo, e più di critiche io parlerei di conversazioni, hanno conversato, hanno spiegato come loro pensano del disco, chiaramente. No, infatti devo dire che sono soddisfatto. È una cosa positiva, secondo me. Beh, conversare per conversare, è giusto che un pezzo meno ce lo suoni adesso. Certo. Abbiamo parlato di resistenza. Ti farò un pezzo che si chiama Classe 1923. È la storia vera di un nonno, si chiama Maragoli a Genova, è nato nel 23, deportato in un campo di concentramento. Pochi mesi prima della fine della guerra, era all'inizio del 45, credo, è liberato dagli americani, lui era in, credo a Zosche, lì in Polonia. E capita che mi racconta un po' di cose di questa avventura e mi lascia una sua foto mentre mi racconta queste cose in bianco e nero, e in questa foto lui è un omino piccolo e magro, questa foto è gonfio. 2 mesi dopo la liberazione dal campo era ingrassato a livelli stratosferici. Mi ricordo che io gli ho chiesto che cosa si provava a essere liberi e lui non ha detto niente, aveva gli occhi lucidi, nella canzone alluda una lacrima, in realtà aveva gli occhi lucidi ma non ha risposto, perché a volte la libertà costa così tanto. Classe 1923. Tolgo le cuffie. Classe 1923, mani piccole e ruvide, dentro gli occhi le mille cicatrici di giornate livide, occhi di guerra combattute, ho sentite dire. Per ragazzini che non possono capire che savor tendrà la reconquista della libertà. Classe 1923 è una foto sbiadita di un ragazzo che oggi siede accanto a me raccontando una vita. L'esperienza è un animale muto che non puoi catturare. Non è mai troppo tardi per poter capire che sapore ha la riconquista della libertà. Certo non è stagione della rivoluzione, ormai non si farà, non serve un ideale. In questo carnevale è l'umanità, né santi né bandiere. Dentro l'ascensore della civiltà. Classe 1923, puoi lasciarmi qualcosa? Tra le mani stringi il bossolo svuotato delle opportunità. Come stringere le mani di una donna, regalare una rossa, l'Appennino che si sveglia all'alba, ma vorrei sapere che sapore ha la riconquista della libertà. Certo non è stagione della rivoluzione, ormai non si farà, non serve un ideale. In questo carnevale che è l'umanità, né santi né bandiere. Dentro l'ascensore della civiltà. Classe 1923, sei lo specchio degli anni miei. Gli ideali sono scuse per esistere, col coraggio di vivere. Ma se guardi bene in fondo all'orizzonte, vedi solo nuvole. Come in fondo all'esistenza di ogni essere, c'è un lottare inutile. Ma che sapore ha la riconquista della libertà? Che savor tendrà la reconquista? Ma che sapore ha? Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Sì, un pezzo molto bello, con molto pathos, con molta partecipazione, si vedeva, si sentiva questi stop and go ripetuti, bello, dicevo a Agostino che era qui vicino, che è il nostro fotografo, che sta fotografando tutto quanto. Il mio naso. E, sì, alla batteria, come, come tu fossi un batterista, un stop and go ripetuto, due o tre stop and go, sì, perché questo è un pezzo che dove era necessario che sia stato così, sia stato costruito così, era indispensabile, che dovevi portare avanti le idee, le sensazioni di questo personaggio. No, poi l'idea di star rifusarmi in un tango che comunque è una danza che di quell'epoca si ballava nelle balere, quindi l'idea di vedere questa figura ballare con un'ipotetica compagna, con quelle cadenze un po' goffe anche del tango romagnolo che magari vuole scimmiottare un po' quell'argentino rosa fra i denti, quindi volevo dare quell'impulso lì. Sì. È un pezzo importante perché la riconquista della libertà è una cosa... Sì. Intanto bisogna essere capaci di perderla, esatto. Perché spesso piuttosto che rendersi conto di averla persa preferiamo fingere di essere liberi, quindi è una fatica doppia, poi bisogna anche riconquistarsela, che probabilmente forse costa, è quasi più facile che rendersi conto di averla persa. Devo dire una cosa, è questa, Manifesto, che l'album Magnifico. Precedente, quante volte lo esegui dal vivo? Spesso, volentieri oppure no? Ma guarda, io considero che i veri e propri concerti di presentazione di questo disco, l'ultimo, Città Invisibili, ripetiamo, è uscito da poco. Sì, fra l'altro è una di quelle uscite, non essendo un personaggio da Hit Parade, l'uscita è molto soft, nel senso che il disco ha cominciato a comparire a luglio, era su iTunes, ma non abbiamo mai sentito l'emergenza di comunicare un'ufficialità. Il disco esce, sta uscendo... bisogna anche chiederlo perché arrivi, cioè nel senso che è una piccola etichetta, una piccola distribuzione, quindi non ha le energie che fra l'altro neppure le mezzo cercano più di spendere, quindi a parte quei 5-6 prodotti forti, l'imposizione viene quasi sempre attraverso i canali digitali o per richiesta. Disco rintracciabilissimo, basta ordinarlo nei negozi, si può ordinare musica, come solito discorso, ma anche semplicemente andando in un negozio di musica ordinando, sono a catalogo, quindi Bonaveri, Città Invisibili, come si trova magnifico. Facilmente. E quindi non è un disco che ha avuto una data di uscita, l'ho suonato, ho fatto una presentazione di anteprima in cui avevamo fatto una piccola stampa di un mini CD con 5 pezzi di questo disco a marzo al Teatro delle Celebrazioni a Bologna, e fra l'altro una nevicata furente, forse perché Dalla ha suonato un brano del disco, sembrava che comparisse, abbiamo preso l'unico giorno con 40 cm di neve, una sfiga che ci si poteva posare le biciclette per capirci. E quindi magnifico, continua ad affiancare il mio concerto, dura tanto, dura un'ora e 40, un'ora e 50 più eventuali bis, e quindi ripercorre parecchi brani comunque di Magnifico. Dalla, come mai sei riuscito a contattare? Dalla è stato un caso, credo che passasse in studio in Phonoprint da Biancani, abbia sentito Controvento, gli piaceva. Tra l'altro è un pezzo con radici profonde jazz, Dalla è un ottimo jazzista, certo, jazzista col clarino. Ha detto quasi ci gioco, Biancani giustamente ha detto dai giocaci, quindi si è divertito a sclarinettare su Controvento. Mi pare che Controvento l'abbiamo ascoltato. No, potremmo anche lo potremmo ascoltare. Sentire. Allora, la traccia numero 4 la sentiremo, la traccia numero 4 la sentiamo, questo pezzo con Dalla, e sì, un grande jazzista Dalla, io ricordo che suonava con i Flipper tanti anni fa. Esatto, ma poi è un grande improvvisatore. Sul jazz veramente, al di là delle gag che fa per quanto bene nei suoi concerti, però sul jazz è veramente bravo. Sì, certamente. Controvento è un po' una canzone di un tipo di invisibilità diversa, di chi si chiama fuori da un gioco noioso come la politica. La politica vera non credo sia noiosa, ma come certa politica è un po' noiosa. Può essere. Controvento da Germano Bonaveri. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Vado, non insistete, non è il mio tempo e non ho più l'età. Grazie, va tutto bene, ma adesso è tardi, ci sentiamo poi. Quiete nell'oscurità di questa notte di frasi usate, un monumento all'imbecillità. Se hai qualcosa ancora che vorresti regalare a chi ti incontrerà, tu vesti l'abito migliore, lascia che succeda il giorno che accadrà. Lascio che il tuo ricordo trovi un tramonto e il male svanirà. Brandelli sguardo di un passante chiede l'ora e se ne va. Ora di scappare via con me, ore di parole spese al vento, voglia di scappare via da me, ore di parole spese disattente. Rimorso che non cullerò, lascio ogni rimpianto all'irrisolto del mio vivere, perché poi passa il dolore, passa lasciando quiete fuori e dentro me. Se hai qualcosa ancora che vorresti regalare a chi ti incontrerà, tu vesti un abito qualunque, lascia che succeda il giorno che accadrà. Se hai qualcosa ancora che vorresti raccontare a chi ti ascolterà, tu vesti un abito qualunque, ti saprò aspettare e riconoscere. Ora di scappare via con me, ore di parole spese al vento, voglia di scappare via con te, di giornate spese contro vento. Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo molto interessante, come tutto il disco è interessante. Io ho scritto, ci sono diversi momenti nel disco, 13 diversi momenti, ci sono 13 quadri, 13 tue interpretazioni, 13 modi di vedere, di sentire, di costruire. Quello è importante, secondo me. Questo è il disco che succede a Magnifico. Magnifico era un disco forse più duro, sì, volutamente più duro, di invettiva. C'era una persona incastata, esattamente, di invettiva. Questo è un disco non di invettiva, ma i testi ci sono, testi anche pesanti che fanno pensare, però meno di, non di impatto in senso negativo. No, ma è vero, sono d'accordo con te, c'è meno dito puntato. C'è meno. Ma vedi, Magnifico già dal titolo era presuntuoso. Esattamente. Mi ricordo Petra Magoni che intervistava al Tenco su Rai 2. Si è avvicinata, mi ha detto Bonaveri, Magnifico, e io per star fede col titolo ho detto grazie. Chiaramente lei intendeva dici qualcosa del disco, quindi già il titolo era una scelta di voler essere sfacciati, di voler andare giù diretti. Questo è più invisibile, sì. È un atteggiamento più ponderato. Tu hai detto, ripetiamo il discorso, questo è il terzo disco, e tu hai ripetuto a me, penso anche dal vivo, che il quarto disco sarà un grande successo. Lo dice a tutti, lo dice sta a tutti. Ma lo dico, San perché Siro lo dici da anni? È innegabile che lo dico dal primo disco. Questo non vuol togliere valore né a questi che ho fatto, anche perché abbiamo lavorato tutti come animali per portare a termine il lavoro. Nel senso che è un presentimento che ho sempre avuto. Io quando ho fatto il primo ho dei testimoni, dicevo già avremo un contratto con una major, il secondo lavoreremo con Beppe qui. Io ho avuto un passato strano, fatto di alchimia, collaborazioni con figure normalissime, non vorrei dare una pessima idea di me, ma con figure importanti che hanno segnato un po' la mia vita anche dal punto di vista della meditazione, eccetera, un po' veggente. E quindi credo che, anche perché il quarto disco sarà un ennesimo esperimento, questa volta forte, mentre i tre dischi hanno comunque un percorso che si può anche collocare, cioè uno può ascoltare il lavoro e dire ok, buon vero, parte da lì, esordisce, timidezza, anche perché poca esperienza, poi fa Magnifico, Denuncia, poi L'età lo porta a ragionare. Il prossimo disco sarà una svolta ancora molto forte. Ma è già dentro nel cassetto? E molti testi li ho scritti. Molti testi li ho scritti. E devo dire che sono molto fiero di quello che è venuto fuori. Bene, bene. Questo è li cambierò almeno 30 volte non da qui importa, a 15 mesi, presumo. Però una traccia c'è stata, se la traccia è già costruita, si può cambiare, certo, però la base. Sì, credo che sia un concept. In questo momento nasce come concept sui tarocchi, intesi come libro. Come libro, li conosco abbastanza bene. Io i concept, amavo particolarmente un concept. Chi ha inventato il concept? Si chiamavano Moody Blues, non so se te li ricordi. Lì invece sono impreparatissimo. Moody Blues era un gruppo degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, e aveva delle particolarità, i dischi senza traccia praticamente, erano tutti collegati, da lui anche i Beatles hanno fatto i concept album, con Sgt. Pepper eccetera, però Sgt. Pepper non aveva proprio un concept album, qualcuno dice che è l'album bianco. Beh, anche Le Orme, anche Le Orme, Felone e Sorona, famoso Felone e Sorona, meraviglioso. Capolavoro. Ma i Moody Blues sono stati i primi a dare quel discorso là, e con dei pezzi molto belli e dei, anche visivamente, delle copertine meravigliose. Andrò a cercarli. Ti ricordi le copertine degli Yes? Certo. Ecco, quel grandissimo pittore. Eh sì. Ecco, è una cosa simile. Ah, fantastico. Quelli erano i Moody Blues. Lo riconosco. E Germano Bonaveri farà un disco concept anche lui, allora, probabilmente. Sì, ti dico, questo era un tentativo. Non di concept, perché non volevo fare il concept. Quando avevo iniziato con queste visibili, sì, poi la cosa ha preso un altro piede. Un altro piede. Era più sviscerare un tema. Che è caratteristica del mio scrivere. Io scrivo anche racconti che parlano uno di inquietudine. Qui volevo sviscerare il tema dell'invisibilità. Il prossimo in questo momento è l'idea di un concept, affrontare, leggere un libro insieme all'ascoltatore, che è il libro del tarocco. Perfetto, io ti faccio questa proposta. Sono le 23:53, salutiamo con due pezzi uno dietro l'altro, cosa dici, ce la facciamo? Ma anche uno, perché comunque lo farò lunghino. Facciamo uno lunghino. Allora. E magari ne approfitto per dire intanto che faccio quello che fai, fare ringraziamenti, no? Ecco, facciamo perché ne sento il bisogno, preferisco rubare qualche secondo. Vai. Okay. Che qui sono stato veramente bene fra amici. E lo dicevo anche fuori linea, questa è un'isola di resistenza umana. Dicevo che se questa cosa venisse fatta un'ora al giorno in tutte le radio italiane, dalla grande alla piccola, permetterebbe forse anche a chi fa questo mestiere di provare a suonare una volta in più, perché alla fine di una trasmissione così chi ascolta può dire questo artista mi piace, non mi piace, non è solo una suggestione, ma può passare attraverso un ragionamento. E credo che, come dicevamo, anche festival su cui nessuno avrebbe scommesso, come Festival della Filosofia, credo che questo tipo di situazioni invece debbano essere riscoperte, perché la radio una volta si faceva così, esatto, ed è lì che la radio ha vinto e ha resistito alle tempeste. Bonfinardi insegna, sì. Chiaramente amo la radio perché libera la mente, esattamente, e noi abbiamo sempre quella prospettiva là. Esatto, quindi ringrazio tantissimo, e vabbè, se qualcuno vuole andare sul sito bonaveri.it, se qualcuno ha locali o contesti in cui venire a suonare, io non ho, devo dire la verità, non ho mai suonato in Veneto, quindi stasera c'è sempre una prima volta. Ripetiamo il titolo del disco, Città Invisibili, si trovano nei soliti canali, potete richiedere, eccetera. Germano Bonaveri, grazie a Germano, grazie a Michele Tosò, ad Agostino e a Roberto che se n'è andato per la fotografia e le telecamere. Domani ci vediamo anche domani, vero? Con Nicola Pavan ed altre cose. Ciao. Grazie a Patrizia, ciao, che è rimasta qua come manager. E cosa fai? Cosa fai sentire? Faccio adesso un brano che è una mia vecchissima canzone che si chiama Contro. In realtà nasce come una sorta di tamuriata a un tema musicale che non canterò e non suonerò, perché bisogna essere capaci di suonarlo. Però siccome l'ho riscritto il testo, e questa è una canzone di invettiva, tant'è che per tenerla differenziata dal disco ho lasciato gratuitamente scaricabile sul web. Perfetto. La suonerò nei miei limiti, giuro ce la metto tutta e vado a eseguire Contro. Grazie e buonanotte a tutti. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Contro ogni bavaglio all'informazione, contro chi ha paura della verità, contro giornalisti servi di un padrone, contro opinionisti senza libertà, contro grandi marchi e multinazionali, contro i terroristi delle pandemie. Sono contagiosi più di quei maiali che hanno macellato nelle farmacie. Contro gli incentivi alla rottamazione, contro sfruttatori della precarietà, contro ogni delirio di globalizzazione e l'azzeramento di ogni identità. Contro ogni razzismo etnico e sociale, contro i paladini dell'italianità che hanno rinnegato l'inno nazionale, pare per questioni di musicalità. Contro chi deplora le intercettazioni, causa primigenia di lesa maestà, sono più immorali le conversazioni dei politicanti di questa società. Contro gli evasori e il loro paradiso, contro chi ha scudato la loro impunità, paghino loro adesso il prezzo della crisi, a noi è rimasta solo la nostra dignità. Contro chi tradisce la Costituzione, sotto giuramento di eterna lealtà, contro chi fa scempio della mia nazione, non ci siano sconti, non ci sia pietà. Contro chi non crede che si possa fare, contro il pessimismo e l'immobilità, contro chi decide le regole del gioco, contro chi partecipa e regole non ha. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito.